בלו טיים. בלו טיים לייב. בלו טיים. לייב. Sono le 21 passate da 4 minuti di questo mercoledì 17 luglio 2013. Buonasera da Agostino Spolone, buonasera da Blu Radio Veneto. Anche questa sera c'è... Sei qua stasera? Sono qui. Sei qua. Stranamente il mercoledì. Stranamente. Comunque ci sono anche domani sera, ci mancherebbe altro. Allora, questa sera eccezionalmente perché dobbiamo fare questa lunga serata all'insegna della musica. Prima avremo un cantautore, poi una band. Insomma, c'è spazio per la bella musica come sempre nei nostri live in acustico. Vi ricordo il nostro numero telefonico in studio, lo 049 875 6423, mentre per i vostri sms è il 346 23 20 033. Però mi sono dimenticato di salutarti. Ciao Maurizio. Ah, buonasera Agostino, buonasera ai nostri ascoltatori. Mentre adesso che ci sei anche tu, vabbè, chissà perché. E allora poi ancora le nostre frequenze 88 700 e 94 600 MHz in modulazione di frequenza per chi ci volesse ascoltare in radio. Se invece ci state ascoltando in streaming, allora la nostra pagina di nostro, come dire, la nostra nostro sito, il nostro sito, non mi veniva la parola, è www.bluradioveneto.it. lì ci potete ascoltare in diretta, basta cliccare semplicemente sulla home page dove c'è scritto ascolta la radio e ci ascoltate sempre in diretta 24 ore su 24. E poi trovate anche tutte le informazioni inerenti alla nostra regione, ma anche le recensioni sui vari artisti che si susseguono in questa emittente, e anche non, cioè nel senso che facciamo qualche recensione anche di qualche bel disco che esce ogni tanto, capita. E poi ancora le nostre pagine su Facebook, semplicemente Blu Radio Veneto, l'altra è Blu Radio Veneto Rock Wave, gestita da Alberto Brisco, che salutiamo, che è il curatore di questa serata. Certamente. Tutta quanta. Tutta quanta. Tutta quanta. Dall'inizio alla fine. Quindi ciao Alberto. Adesso è venuto il momento di presentare un cantautore che ci raggiunge da... dalla Sicilia. Buonasera Joe, da dove esattamente della Sicilia? Da Catania. Da Catania, da Catania. Vicino Catania, sì sì. Ciao Joel. Ciao Joel, benvenuto a Blu Radio Veneto. Grazie, grazie. Ringrazio dell'ospitalità. Noi abbiamo ascoltato il tuo disco, Joel. È un disco molto interessante, ben fatto, musicalmente pieno di tante cose interessanti. E hai scritto, abbiamo letto, che tu hai il vizio di scrivere canzoni. È un bel vizio, secondo me, è un ottimo vizio. Cosa dici? È meglio di fumare. Assolutamente, siamo perfettamente o d'accordo. Di abusare di alcolici, insomma. Esattamente. Scrivere canzoni è una bella attività, scrivere canzoni. Sì, sì, io guarda, in realtà è una cosa che ho coltivato personalmente per anni e con l'andare del tempo è diventata una specie di sfogo. Quando io ho un problema, siccome ho un carattere un po' riservato, piuttosto che litigare con qualcuno... o che so io, delle volte mi sfogo scrivendo una canzone e magari poi per questo alcune canzoni sono un po' non lo so come definirle. Io forse sono quello che ha meno titoli paradossalmente per definirle, però un po' personali, complicate da è un mondo, un progetto particolare questo disco, che si chiama Incendi di Inchiostro. Bello, Incendi di Inchiostro, quasi caffiano possiamo dire. Sì, sì. Il titolo nasce perché è un disco in cui ho raccolto in particolar modo le canzoni in cui avevo preso il vizio, scusando la ripetizione, di giocare un po' con le parole. Con le parole. Quindi è un disco che parafrasa proverbi, oppure che semplicemente accosta delle parole in maniera strana per cercare di creare delle immagini possibilmente nuove. Quindi un sacco di incastri, possiamo dire così, Joel, cosa dici? Sì, sì, ma questo è il tentativo. Il tentativo. E lo hai inciso a Nuvarte di Carlo Longo, è stato inciso questo disco. Carlo Longo è... E chi è Carlo Longo? Spiegami. Carlo Longo a Catania è famoso. Bene, bene, bene. Altrove ancora meno, però è un bravissimo arrangiatore, è uno studio di registrazione proprio qui a San Giovanni Monte. Io l'ho scoperto per caso attraverso degli amici musicisti e lui ha collaborato con vari gruppi qui, diciamo, nell'ambito siciliano. Adesso è da poco stato anche a Musicultura con Cassandra Raffaele. Ah, bene. Hanno suonato insieme e sono arrivati. Credo conosce anche Agostino, vedi? Mi conferma, sì. Agostino al microfono, che lo conosce anche lui. Sì, sì. E il disco di Cassandra è stato registrato lì, dove ho registrato io Incendi d'Inchiostro. e tante altre band che forse sono più famose a livello locale, ma che comunque si difendono e soprattutto cercano di fare qualcosa di qualità. Catania una volta aveva Virlinzi, caro Joel, poi purtroppo purtroppo se n'è andato troppo presto e si è un po' ristretto il discorso, però è una città viva Catania, citiamo la Consoli tanto per citare un nome, insomma. Sì, no, io sono compaesano della Consoli. Ah, perfetto. Tra l'altro, quindi. Io sono qua a pochi chilometri. Esattamente. Cosa dice Agostino? Cerchiamo di aprire la finestra di questo disco di Joel, che è un progetto assolutamente. Noi abbiamo scelto, Joel, la traccia numero 2. Adesso me la spieghi un pochettino. Anche Ossidiana si chiama il pezzo. Ossidiana. Pronto, mi senti? Sì, dico, la spiego adesso. No, adesso facciamo così. Dai una introduzione, sì. Dopo musicalmente la spieghiamo assieme. Adesso dai un'introduzione a te al pezzo. Ossidiana è un pezzo quasi country che nasce per caso, nasce in maniera curiosa perché anche qui da un gioco di parole, perché io sono un insegnante, una volta a scuola un ragazzo si è lamentato che il compito, dice, la domanda che gli avevo posto era strana, dice, professore, come si fa a rispondere a questa domanda? E gli ho detto, guarda, ci vuole un po' di estro e anche un po' di inistro, che è una stupidaggine, non esiste. Poi tornando a casa, questa cosa è stato l'inizio per scrivere questa canzone, che in realtà poi parla ovviamente di tutt'altro, parla un po' del prende un po' in giro il cantautore, sì, sui generis, parli di cantautore sui generis, esattamente, che cerca per forza dei temi alti, invece se il tema più alto è l'amore, forse la forma più alta di canzone è la canzone d'amore. Dovesse dire anche una cosa stupida come capita in questa canzone, probabilmente rimane la forma più alta di poesia e di canzone. La sentiamo, la cosa dice? D'amore. Con piacere. Per scrivere canzoni serve certo un certo estro, ma serve anche un po' di inistro. Sapere dove va a morire il sole, sapere come scalda le persone. Però quello che mi piace di te è la tua bocca di fragola. Scrivere canzoni, le canzoni d'autore, devi avere certo una tua opinione sulla crisi mondiale, sulla globalizzazione, su come sta cambiando le persone. Però quello che mi piace di te, la tua bocca di fragola, sulle tue pupille di ossidiana, c'era quel sorriso che non ho più con me, sopra quel tuo cuore color corvo, c'era tutto l'amore che ho pensato per te. Quello che mi piace di te, la tua bocca di quello che mi piace di te, la tua bocca di quello che mi piace di te, la tua bocca di fragola. Fragola, sulle tue pupille di ossidiana, c'era quel sorriso che non ho più con me, sopra quel tuo cuore, mia regina, c'era tutto l'amore che ho pensato per te. C'era il meglio del mare, c'era un po' che parole, c'era tutto l'amore che ho pescato per te. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Eccoci qua, Ossidiana. Io ho scritto nelle piccole note che ho fatto prima. Sei molto, come impostazione vocale, un po' De Gregoriano, secondo me. Non so se sei d'accordo. Ma io sono un fan. Ecco, vedi. E una cosa, cari ascoltatori, voi non lo sapete, è molto propedeutico questo disco di Joe. Perché? Perché Joe all'inizio di ogni pezzo mette le note. Sì. È molto interessante quello, è una cosa molto ben fatta e molto intelligente, secondo me, Joe. Si è messo accordi. Proprio gli accordi, praticamente. Mi senti? Sì, no, è così, è un vezzo, mi è piaciuta questa idea, in realtà, perché io anche da suonatore di chitarra avevo sempre, andavo, adesso è più facile con internet, ma una volta si andava alla ricerca di questi accordi, però io non ho molto orecchio, quindi se non ce l'avevo davanti non riuscivo a suonare, capito. Quindi mi avrebbe fatto piacere trovarli nei dischi, invece non li ho mai trovati, quindi io che ne ho fatto uno finalmente li ho messi. Hai fatto bene, se uno vuole suonare il tuo pezzo, sei un musicista, sei una chitarra, velocemente lo riesce a recepire, giusto, no? Volendo sì, beh, è una cosa positiva, secondo me. Suoni con una band, anche ti segue una band, sul disco ci sono più di un musicista che ti ha accompagnato. Sì, no, il disco è suonato, insomma, quasi tutto da strumenti reali, certo. E adesso questi ragazzi che hanno suonato insieme a me nel disco mi seguono anche dal vivo. Noi stiamo facendo delle serate, faremo proprio una presentazione live dell'album questo sabato. Forse a voi viene un po' fuori mano. Sì, leggermente. Alle pendici dell'Etna, però insomma. Non si sa mai. Qualcuno va in vacanza in Sicilia. Agostino, spesso e volentieri vieni in Sicilia, vero Agostino? Sì, sono stato l'anno scorso. Sì. Sono stato giù a. Non mi ricordo più il nome. Ad Alcamo. Alcamo, bravo, ad Alcamo Marina, Alcamo e anche a Castellammare sul Golfo, e lì c'era un. Castellammare sul Golfo. Che è bellissimo. La riserva dello Zingaro, bellissimo. Sì, esatto, tutta quella zona lì, c'era un concorso, c'era un spettacolo, mi hanno invitato giù e ho fatto. Vedi caso, Agostino andato a vedere. È una bellissima terra. Ha incantato i tuoi colleghi, Joe. Come? Ha visto uno spettacolo di cantautori, i tuoi colleghi. Sì, dei colleghi, certo. Ci ho lasciato il cuore, se lo trovi qualche volta mandamelo su. Te lo rimando su. Sì, perché... No, puoi tornare a prenderlo. Certo, guarda, io ho vissuto 5 giorni meravigliosi che non dimenticherò mai, veramente. Siete veramente, non dico perché sei tu al telefono, ma siete persone stupende. Poi c'è ancora tutta questa parte della Sicilia da, sì, da la prossima volta ve lo dico. Poi che tra l'altro abbiamo contatti anche dall'altra parte, quindi insomma non solamente da Palermo e limitrofi, insomma. Certo. Gio, è stato difficile fare un disco, è stato pesante, cioè sei riuscito dopo tanti tentativi o avevi già in mente di farlo assolutamente? Allora, qui si apre una parentesi molto grande, perché oggigiorno, come saprete benissimo tu, anche Alberto, che è una persona che si prodiga per, diciamo, certo, gli emergenti, è estremamente difficile riuscire a fare qualcosa, se non altro perché bisogna sobbarcarsi ormai l'intero costo della produzione da soli e anche quello della promozione delle volte. E quindi sostanzialmente era qualcosa che io avevo nel cassetto da molto tempo, l'idea di fare, mettere su un elenco di brani per fare un disco, e l'ho fatto quando ne ho avuto la possibilità, perché il disco è completamente autoprodotto. Se io insomma avevo cresco con i cantautori, per l'appunto De Gregori, De André, Battiato, e nella mia mentalità insomma doveva essere qualcun altro ad ascoltare, che ne so, una cassettina, chitarra e voce, dirti che voleva. Non c'è più il tale scout. Il tuo disco, questa cosa. Ho non capito. Esiste più. E non c'è più il tale scout, Joe. Il poco da fare. No, non c'è più. Non c'è esattamente. Più. Ma io ero un nostalgico. Io mandavo veramente le cassettine. Poi non mi ha risposto mai nessuno, perché si aspettavano un disco già prodotto. Quindi io, sì, quando l'ho potuto fare, insomma, poi a un certo punto mi sono autoconvinto e l'ho fatto. Hai fatto bene, io lo trovo molto interessante il tuo disco, io e Alberto l'abbiamo sentito più di una volta, e purtroppo l'unica negatività è che sei troppo distante per imitarti qua, tutto là, il motivo è solo quello. Ma prima o poi chi lo sa, non si sa mai. Potrei anche venire a farmi una disco. Guarda, giovedì della settimana scorsa abbiamo avuto una siciliana. Esattamente, una ragazza della Sicilia. La Rossella Aliano, non so se la conosci, Libera Dante. Libera Dante, certo, è l'anno scorso. Ecco, è venuta qui la settimana scorsa con Era il Rivale, capisci? Ma quindi... registra pure lei, quanto è piccolo il mondo. Ah, sì, sì, sì. Da parte. Vedi, è piccolo il mondo, ma la musica è una, un'unione universale, si può dire, Joel, c'è poco da fare. Sì, sì, sì. Da noi arrivano da tutto il mondo, perché abbiamo avuto gente veramente dall'Australia, dagli Hawaii, dall'America, da Olanda. Cioè, abbiamo avuto gente veramente, artisti bravissimi da tutto il mondo, quindi siamo qui con le porte sempre aperte per chi fa la buona musica. Joel compreso, chiaramente. Joel compreso. Assolutamente. Una cosa, vi ringrazio a nome di tutti. Senti, fa un caldo boia fuori, ma nevica. È possibile? Esatto. È possibile, è possibile. Io ho suonato questa canzone dal vivo al Lennon Festival a Letojanni, davanti al mare ad agosto, 40, cioè un 30 gradi, e noi cantavamo nevica. E c'era un altro ragazzo che ha suonato prima di noi, che cantava un pezzo mentre nevica, e noi credevamo di essere originali. Pensa un po'. Rimasti quasi male. È un pezzo molto interessante. Ci sono un po' di chitarre distorte all'inizio, che non fanno mai male a nessuno, le chitarre distorte. I ragazzi della band qua confermano anche loro, le chitarre distorte non fanno mai male, Joe. No, no, no, no, non fanno male, soprattutto se non sono a volume altissimo. Esatto, non volume altissimo forse fanno male un po' alle orecchie. Un pochettino, ma niente di straordinario. Però fanno bene le chitarre distorte. Le sentiamo, sentiamo un po' nevica, come st'inizio di chitarre distorte. Prego. Se c'è una cosa che mi opprime, sono i nani nel giardino. Se c'è una cosa che mi confonde, sono le tue curve, sono le tue sponde. C'è una cosa che mi ingelosisce, sono le tue angosce. Se c'è una cosa che mi ha percosso, sono la tua carne, sono le tue asse. Allora bianca, bianca, bianca, nevica, nevica. Sarò perfetto e non vivrò per sempre, da non poterti attaccare fino in fondo. Non mangerò che mi ha fatto bene, sono le tue pene, da potermi ricordare la tua umanità. Se c'è una cosa che mi ha fatto male, sono le tue condizioni per poterti guardare. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Non a caso è arrivato alla semifinale del pezzo del festival, secondo me, questo pezzo. Perché, Joel? Ti spiego il perché. Perché anche come costruzione non è tanto semplice. Delle belle chitarre distorte con un centro, un giro del piano, una melodia. Sì. È molto interessante come costruzione sonora. Sì, sì, ci piaceva l'idea di fare qualcosa che una sola canzone comprendesse un po' di due facce della stessa canzone. Diversi, che fosse aggressivo e dolce. Esattamente. Jagged and Stride. Anche il tempo in realtà poi rallenta. È vero, rallenta, esatto. Sì, si ferma una fermata, i cosiddetti stop and go, chiaramente. Sì, sì, rallenta e poi riaccelera nuovamente. E come, che difficoltà hai avuto a costruire musicalmente un pezzo simile? Che non è semplice, è complicato, secondo me. È complicato, infatti io in realtà questo pezzo l'ho scritto per chitarra, cioè con la chitarra, come scrivo tutti quanti gli altri, e già quando ho provato io a registrarlo a casa mia, che avevo un minimo di strumentazione, ho trovato difficoltà perché non riuscivo ad andare al tempo con me stesso, e quindi mi sono accorto di queste variazioni. E quindi poi è stato possibile registrarlo in qualche modo soltanto con l'ausilio di persone molto più preparate di me, come per l'appunto Carlo Longo, che ha fatto... Ma cosa ti ha dato Carlo Longo in questo disco? No, musicalmente cosa ti ha dato? Allora, mi ha dato tantissimo. Gli arrangiamenti io giustamente lo scrivo nell'ultima pagina del libricino, che sono i suoi innanzitutto e poi anche i miei. Lui è abituato ad arrangiare tutto da solo, la gente va lì, gli dà anche dare voce e poi se la sbriga lui. Io invece ho voluto essere presente, ho voluto dare il mio contributo, ma essendo lui la persona di gran lunga più esperiente, e diciamo che dipende un po' dai pezzi, però la maggior parte dei pezzi, molte delle idee, degli arrangiamenti sono le sue, ha dato l'onore al merito. Poi io mi sono trovato benissimo con lui e praticamente in due abbiamo fatto una specie di band inizialmente, poi si sono aggiunti gli altri, ma una specie di band perché, che so, completavamo il riff due note ciascuno, al piano o alla chitarra. Lui veniva in mente tre note, a me le altre tre, quindi è fatto veramente a quattro mani questo lavoro. E il risultato, io ne sono molto contento. Poi, no, anche noi, assolutamente anche noi. È molto americano il modo di lavorare vostro, secondo me, in questo momento. Cioè, sì. Molto americano, molto anni 60-70, come si usava una volta, chiaramente. Sì, poi è una scelta in realtà quella di, magari dal punto di vista della melodia, dei testi, mi sono rifatto un po' ai cantautori che amo, come dicevo prima, sì, però certo. Dal punto di vista degli arrangiamenti abbiamo guardato un po' all'estero. Esattamente, sono molto... Sia in America che in Inghilterra, le band, diciamo, che sono avanti... Per certi versi, dal tuo punto di vista di riferimento, hai citato le note anche Wilco e Counting Crows. Wilco, soprattutto Wilco che ha una bella sonorità, assolutamente diversa dalle altre. Molto interessante la sonorità di Wilco. Cosa dici? Sì, sono il famoso alternative country. Esattamente, country proprio l'alternative country. È moderno e dissonante in alcuni casi. E, insomma, noi sì. Non so se arriviamo a tanto, però ci ispiriamo. Però l'idea è quella, Sì, ci ispiriamo un po' anche a queste cose. Praticamente sto pezzo dal vivo, quanto ha montate le chitarre elettriche o la versione è quasi simile al disco? E lì ho un problema di numeri, perché per esempio a lei non eravamo in 5 e quindi avevamo 3 chitarre, poi una praticamente non si è sentita. Perfetto. Detto, sono le classiche cose che succedono nei festival. E adesso non si sente perché abbiamo avuto una defezione di questo ragazzo che suona con una chitarra, siamo ridotti un po' in quattro e cerchiamo ovviamente gli arrangiamenti di ridurli, certo. Come si usa fare oggi, ci sono tantissime sovraincisioni. Poco fa in Ossidiana, per esempio, c'erano almeno 5 chitarre. Ma sei magari d'accordo con le sovraincisioni? Perché sono amalgamate bene, però ovviamente dal vivo non è che possiamo metterci lì uno squadrone. Sei d'accordo con le sovraincisioni te? O sono una necessità? Sì, no, ma a me piace molto. No, qua ridono i ragazzi della band. Perché ridete? Loro non sono d'accordo. Dimmi. Loro, se, i ragazzi, non so, magari non sono d'accordo. Io no, sono d'accordo anche loro. Assolutamente d'accordo con te. Amo molto quei brani che ascoltandoli 10 volte, la decima volta ci trovi qualcosa di nuovo. e hanno magari per questo tantissime sovraincisioni. Io per esempio ricordo OK Computer di Radiohead, la straordinaria capacità di sorprenderti dopo il 30° ascolto, perché tu ti accorgi che c'è quella chitarrina in sottofondo che finora non si era sentita, che era l'ennesima. E quindi a me un po' piace questo tipo di lavoro così. Poi ovviamente ci sono dei pezzi più minimali e dei pezzi che invece hanno più sovraincisioni, che ovviamente devono essere capaci l'una di non cozzare con l'altra. E Cadere, che pezzo è, caro Joe? Cadere è l'altra traccia che abbiamo scelto adesso. Cadere è un pezzo, diciamo, si va sul pesante. Sì, anche dal punto di vista vocale si va sul pesante, secondo me. Come direbbe qualcuno. Mm. È un pezzo più viscerale, in cui sostanzialmente, insomma, non so, adesso mi sono incartato, è più emotivo, c'è una maggiore emotività. È un pezzo che ho scritto in un momento di scoramento, però è forte, io credo, cioè è un pezzo che proprio si capisce che è uno sfogo, e un po' parla del tempo che passa, della sua inesorabilità e del timore che tutte le cose possano sfiorire con l'andare del tempo. Bene, lo sentiamo allora, Cadere. Sì. Dentro del mio orologio e qualcuno sull'anima, sul tempo che scorre via e sullo spazio che rimane. Ho una voglia infinita di andare oltre il cortile. Ho una gioia, mi logora come i graffi, si alternano e ridono al di sotto dei baffi. Ho la voglia di farmi tradire, sarebbe gioia di divenire. Ho un coltello in tasca e una spugna bagnata in testa. Ho la sta protesa ad ogni sciocca conquista. E tu, che sei la mia regina, saresti pronta a cadere in rovina. E tu, che sei la mia regina, saresti pronta ad andare. Una canzone giostra quando mi sento solo, è il fiato che mi serve per chiedere perdono e perdonare chi posso, e aggiustarmi il sorriso, una gioia nascosta, un sorriso mal custodito. Ho l'idea di starti accanto, ho il sospetto che tu sia soltanto un'idea. E tu, sei la mia regina, saresti pronta ad andare in rovina. E tu, che sei la mia regina, saresti pronta a cadere. Ho la vita che mi tiene per le dita, ho una mano che mi stringe il petto, e la voglia di restare un po' sul tetto. Come on. Blue Time. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live. Cadere. Un pezzo della, dalla giusta lunghezza, secondo me, Geo. Non poteva essere più corto, doveva essere così. Ma questo, guarda, che ne abbiamo discusso a lungo, perché purtroppo oggi fare un pezzo 4 minuti e 40 sembra quasi un'eresia. È una cosa che una volta era semplice, una volta si usava, poi c'è stato il arretramento, si arrivava a 3 minuti, i cosiddetti 3 minuti sanremesi, e poi le cose sono cambiate. Ah, speriamo, perché... Secondo me devono essere cambiate. Ma ogni pezzo c'ha le sue esigenze, può durare un minuto come certo. 8, è così. Invece costringere tutto all'interno dei 3-4 minuti, delle volte è un sacrificio. Esattamente, i LED hanno fatto 9 minuti e 12, Star Way to Even, non era un sacrificio però, assolutamente. Vabbè, mettiamo in Pink Floyd, delle volte esageravano pure. In ogni caso il pezzo è molto bello, molto pesante nel senso positivo del termine. È questa chitarra, chi la suona questa chitarra finale? La suoni te? Le chitarre le ho suonate tutte io, una con calma. Le ho suonate tutte io, acustiche ed elettriche. Sì. Bene, complimenti, vero Agostino? È stato bravo, decisamente. Beh, quando si fa tutte le cose da solo, la soddisfazione è ancora più grande. È vero, vero, Gioia. Perché no, è come se fosse un figlio tuo, insomma, giusto? Sì, no, ma anche in quel caso un po' gli arrangiamenti delle chitarre, poi qualcosina abbiamo fatto sempre con Carlo Longo, però poi di suonare le chitarre le ho suonate tutte io alla fine. Tu hai detto che il 20 luglio presenti al Pineta Montirossi questo disco nuovo, ma che posto è il Pineta Montirossi? È un bel scenario naturale per presentare un album? Praticamente sì, siamo dentro un bosco. Ah, bellissimo, una cosa bellissima. Sì, siamo in mezzo a una pineta, sostanzialmente lì è un luogo che ho frequentato molto da bambino, perché i catanesi hanno, quando hanno caldo salgono sull'Etna. E quindi soprattutto i sabati sera d'agosto, mi ricordo quando ero bambino, ho passato lì tantissime serate a fare assolutamente niente, perché si andava lì semplicemente per prendere la frescura. Un po' di fresco, esatto. E nessuno mi avrebbe mai detto che poi dopo anni sarei andato lì a presentare il mio primo disco, invece è capitato. Etna permettendo comunque. No, ma l'Etna è buono, noi siamo abbastanza in basso. Io insomma lo dico da cognizione di causa, perché ho lavorato sull'Etna per tanti anni, è molto molto molto molto grande, e quindi anche quando sono le eruzioni il pericolo per la popolazione è minimo, praticamente inesistente. Perché non ci sono per paesi per chilometri dal cratere centrale fino ai primi paesi, appunto. Benissimo, abbiamo detto 20 c'è la presentazione ufficiale, e poi ci saranno delle date, Joel, per questo disco? Sì, noi poi partecipiamo a alcune manifestazioni, per il 27, quindi la settimana successiva, partecipiamo a una manifestazione che si chiama Musica contro la Mafia, che è una bella occasione, e qui a San Giovanni Punto abbiamo un bellissimo anfiteatro, che insomma partecipano diversi gruppi e faremo un paio di brani lì. E poi avremo un altro concerto, un altro locale il 2 di agosto, e altre date che stiamo cercando di concordare in questi giorni. Bene, bene, cosa molto positiva, far sentire la musica, suonare dal vivo è la cosa più bella che esista. Sì, poi probabilmente è quello che mi è mancato per anni, con la scusa del disco finalmente usciamo e prendiamo un po', faccio prendere a questa canzone un po' di aria. Mi togli una curiosità, Joel, come mai questo titolo, questo Incendi d'inchiostro? E il titolo è stata tra le ultime cose che ho pensato, perché paradossalmente avevo l'idea, avevo la tracklist, sapevo di cosa parlava più o meno il disco, però non trovavo un titolo che mi soddisfacesse, ne ho cambiati diversi, poi tra i miei appunti ho trovato 4 righe di un piccolo testo che non è mai diventato una canzone, che cominciava così con Incendi di inchiostro. Mi è piaciuto e ho detto che poteva stare lì. Come? Matite, fogli in bianco, a letto senza cena e senza sonno. C'è scritto dietro. Che poi fino alla fine ho detto, ora questa cosa la inserisco da qualche parte, in qualche canzone, e poi invece non l'hai messa. Me la metterai nel prossimo disco. Adesso abbiamo scelto un pezzo meraviglioso, secondo me, uno splendido retaggio folk, la traccia numero 7, una ballata molto molto inglese a mio parere. Cosa dici? Diciamo il titolo intanto tu, innanzitutto, Gioia. L'odore della terra? È sì. L'odore della terra. Bellissimo, l'ho trovato bellissimo. La provavo fino a poco fa, perché lo dobbiamo portare dal vivo e c'è un'arpa molto molto bella, suonata da mia nipote, che è una ragazzina di 14 anni, che pure suona benissimo l'arpa. Però, bene. E quindi lo provavamo proprio un'oretta fa con l'altro chitarrista, perché dobbiamo portare insomma anche questo brano dal vivo, abbiamo la fortuna di poter portare questa bell'arpa fino su alla pineta di Nicolossi e anche... Noi l'abbiamo trovato splendido questo pezzo. Sì, io l'ho catalogato come folk, anche forse inglese, ma è folk di Joe, cioè è la sua interpretazione di una ballata. Io lo trovo molto interessante, anche musicalmente. Non è semplice, sembra semplice il suono, ma non è proprio così, vero Joe? La costruzione non è talmente così fatta in un momento solo, è stata costruita con il tempo. E il brano, questo brano nasce praticamente così, più o meno nel tempo che ci vuole per ascoltarlo, addirittura era più lungo, poi l'hai tagliato, però sembrava in questo caso un pochino pesante. Appariva costruito, ma nel senso positivo del termine, fatto in una certa maniera. Sì, poi in realtà è apparentemente semplice, perché si ripetono sempre gli stessi accordi, però con delle variazioni, per cui bisogna anche... seguirlo. Io di solito non amo le cose troppo complicate, spesso i miei pezzi hanno 3-4 accordi, però sono distribuiti in maniera strana, per cui bisogna seguirli. Esattamente. Sentiamo questo pezzo meraviglioso, L'odore della terra, con l'intervento di Miriam Zappalà, giusto? Esatto, perfetto, all'arpa. L'odore della terra ti scandalizzerà, l'odore della terra mi riempie l'anima. Forse è troppo presto, forse non voglio stare sveglio, forse è colpa mia, forse è come vuoi che sia. Ma l'odore della terra spaventerebbe i morti, e sul ciglio della strada i miei pensieri incolti. Forse per colpa di chi non si prende le giuste libertà. Forse anche colpa tua, che non ti volti mai avanti. L'odore della terra è l'odore di casa mia. Forse è la mia casa stessa, forse ipocrisia. pensarlo mai. Non desiderarlo mai. Blue Time Live. Blue Time. Live. Caro Joe, questo finale un po' onirico, psichedelico, cosa dici? Leggermente. Sì, mi fa piacere se lo reputi così. Io l'ho recepito così, questo finale, che si allarga, magicamente si allarga. È una cosa molto bella anche da sentire. Noi siamo distanti, ma è come se fossimo vicini, come fossi davanti a suonare, chiaramente. Eh sì, è il potere della musica. È il potere della musica. Per fortuna oggi si muove con facilità anche la musica. Questo è importante, fondamentale. Ricordiamo qualcosa delle tue coordinate, Joel. Sì, se come contatti, se volete contattarmi su Facebook c'è una pagina, si chiama proprio Joel Incendi di Inchiostro, di apostrofo inchiostro, e lì ovviamente come funziona in questi casi, uno clicca mi piace e poi viene aggiornato su quello che faremo in giro e non solo. E poi su YouTube c'è un canale di Joel, però secondo me un nome un po' comune. Joel, anche con la J è abbastanza comune, certo. Però se cercate Joel Incendi d'Inchiostro, anche lì troverete i brani che ho caricato là, che non sono tutti, insomma, che non c'è tutto il disco. Il disco, bisogna contattare per messaggio e in qualche modo, se lo volete, vi arriverà. Certo, ci mancherebbe altro. Sì. E prossimi concerti allora? Eh sì, l'abbiamo detto prima, noi saremo per appunto il 20 a Nicolosi, alla Pineta, e il 27 all'Anfiteatro di San Giovanni la Punta, e il 2 di agosto allo Zanzibar, che è un altro locale, si trova qui nelle vicinanze. Bene. Le altre date non le so ancora. Quindi poi non si sa mai, si può andare in continente anche, Gioia. Cosa e piano piano. Piano, ci vuole un po' di pazienza. Esatto. Con un po' di pazienza. Se c'è qualcuno all'ascolto che ci vuole dare una mano, noi andiamo dovunque, non c'è problema. Senti Joel, vuoi che chiami qualche mio amico dalla Sicilia, che gli chiedo se per caso ha visto il ragno delle sette pietre, Ariadna? Il ragno delle sette pietre è difficile perché vive in Namibia. È in Namibia. No, visto che l'hai scritto qui, ma ti piace così tanto? No, praticamente è una storia curiosa. E ci vuole un attimo a raccontarla. Certo. E in realtà io ho studiato scienze naturali, il mio professore di etologia, il comportamento degli animali, studiava questo ragno in Namibia che costruisce una tana, scava un buco nel terreno e poi sulla sua tana mette sette pietre a cerchio, e lui si chiedeva, dice, ma perché ne mette sette? Perché sa contare fino a sette? O perché la dimensione delle pietre che ci sono lì è tale per cui per chiudere il cerchio ci vogliono sette pietre? E anch'io sono, paradossalmente, perché sarò scemo, anch'io mi sono arrovellato con questi dubbi, volevo fare la tesi su questo ragno delle sette pietre, poi non è stato possibile per vari motivi, andare in Namibia lì in quel periodo, e quindi l'ho fatta su un'altra cosa. Però poi, siccome ragionavo sul fatto che lui contava su queste sette pietre per poter sopravvivere, allora per estensione gli ho detto, ho scritto una canzone per la mia ragazza, cioè, allora come lui conta sulle pietre, io conto su di te. Benissimo. È la prima volta che ci capita, Maurizio, che uno ringrazia un ragno. Senti Joel, un grazie radiofonico a tua moglie e ai tuoi figli, lo mandi? Ah certo, io sono in realtà sono io a casa. Ah ecco. Con mia moglie che cerca di mettere a letto i bambini, soprattutto di non fargli fare rumore, perché mi ha raccomandato che sennò si sente tutto il radio. Certo. E li ringrazio, insomma, poi mia moglie indubbiamente, perché è stata la musa ispiratrice, certo, della maggior parte delle mie canzoni in questi anni. E anche i bambini ovviamente. Come si chiama la moglie? Mia moglie si chiama Elisa. I bambini? Così i nomi si chiamano Sofia e Mattia, 8 ecco. anni e 5 anni. Ecco, così io sono un po' fatto un percorso un po' strano, alla rovescia. Prima ho messo su famiglia e poi sono messo a fare il musicista, e solo si fa al contrario. Cioè, vabbè. Non c'è mai limite, dicono, no? Giusto? No, fortunatamente. E poi non è una regola scritta, quindi. Non è una regola scritta, e per l'appunto l'ho fatto quando ho avuto la possibilità e l'occasione. Prima non ce l'avevo, quindi non potevo farlo. Certo. Allora, Joel, noi ci salutiamo con Così che. La traccia numero 9, che è un traccia molto importante, ha una caratteristica, secondo me, Joel: si apre progressivamente, si allarga musicalmente, e per me è significativa. Io l'ho scelta come finale di questa nostra carrellata, chiaramente. Nonostante duri quasi 5 minuti. Ma vedi qua, no, il tempo musicalmente qui in questa radio non si taglia niente. Non assolutamente. Si taglia niente, no. L'ho visto fino all'ultima nota. Certamente, molto, perché questa è la musica, piacere. La vera radio, secondo me, certe cose si devono ascoltare. Non si può tagliare un pezzo contento. Di un cantautore, Joe, sono dai. Molto contento di che voi la pensiate così. Non si può tagliare un pezzo, ma non si può tagliare in ogni caso niente. Ma quello di un cantautore è ancora meglio. Insomma, cantautore e cantautore proprio a quella essenza di musicalità. Come si fa a tagliare un pezzo di cantautore? Va bene, Joe, noi ti aspettiamo qui a Padova. Se ti capita di passare, vieni a farci sentire la tua musica dal vivo in acustico. Se dovesse succedere, io sono venuto lì qualche anno fa, ho degli amici, se mi capita di tornare vengo con la chitarra a tracollo. Va bene? Guarda, sei in contatto con Alberto, quindi puoi parlarne tranquillamente con lui. Sì, volevo ringraziare in particolare Alberto, che mi ha dato l'occasione di essere qui con voi in questa bellissima trasmissione. E salutiamo anche Gino, un ascoltautore. Certo, Gino. Che è sempre presente, lui è sempre presente, no, e ascolta Gino tutti. È stato salutato. Io sono qui con voi grazie a Gino. Esatto. Sì. L'ho trovato su Facebook, anche lui, solo perché siamo l'ascoltautore. Ho detto, qualcuno che mi ascolta. È un fedele. E adesso sono qui a parlare con voi. È un caro amico, prima di tutto, ed è un fedele ascoltatore di questa emittente, Gino. Sì. Oh, se ci sta ascoltando lo salutiamo. Certo. Lui, cioè. Certamente. Joel, un abbraccio grande da tutta Blu Radio Veneto e a presto allora. Va bene, grazie. Ciao, tutto. Grazie, Gio. Grazie. Ancora. Ciao. Passi, tremano i pavimenti, finché non farò l'abitudine, tremerò anch'io. Così bella che quando va al mare, questo si scioglie come neve al sole, ti trovi sola ad arrancare nella sabbia più impensata. Amore, la bellezza è una cosa terribile, ma se soltanto mi lascerai fare, ti chiuderò in casa senza farti uscire, così che così. Buono che persino il pane, quando mi vede diventa invidioso e diventa ogni giorno più duro con sé, con quelli che gli stanno intorno. Così buono che tutti quanti si approfittano di me, persino il parroco del tuo paese ed il cane che non ho mai avuto. Amore, la bontà è una cosa terribile, ma se soltanto ti lascerò fare, mi chiuderai in casa senza farmi uscire, così che, così che. Thank you. Blue Time. Blue Time Live. Blue Time. Live.